Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Siamo campioni del mondo di umanità, ci viene riconosciuto. Gli hotspot sono dei centri di registrazione e smistamento. Noi accogliamo i profughi e lavoriamo per rimpatriare gli irregolari. Io capisco le parole di Monsignor Galantino, che fa il vescovo, io però faccio il ministro dell'interno e ho il dovere di fare rispettare le leggi. Così, care ascoltatrici, cari ascoltatori, il ministro dell'interno Alfano ha risposto a Monsignor Galantino, segretario dei Vescovi Italiani, segretario della CEI, che oggi ha detto: non mi piace questa idea degli hotspot fatti già in mare, questa è l'ipotesi, no? Di fare delle piattaforme dove già dal mare si possono fermare, identificare i migranti. Galantino ha detto: sono contro e soprattutto dobbiamo accogliere tutti, però... di là che ci sia stato anche Salvini, leader della Lega, che ha risposto piuttosto duramente a Galantino dicendo che si dovrebbe vergognare, che deve chiedere scusa perché complice di scafisti, Alfano è stato un po' più morbido, come avete sentito, e ha detto: lui fa il suo mestiere di vescovo, io però da ministro dell'interno devo occuparmi della gestione dei migranti e non possiamo accogliere tutti. Ora invece c'è altro tipo, parleremo anche di questo, c'è altro tipo di migrazione, siamo al ponte del 2 giugno, molti di voi fortunati sono già in partenza, quindi non perdete neanche un istante di Effetto Notte mentre siete in macchina, qualcuno anche dal treno ascolta o dall'aereo, non credo che sia ancora possibile. Effetto Notte da tutto il mondo, tra l'altro, ma per quanto riguarda l'Italia, chi sta andando verso le proprie località di breve, neanche tanto vacanza, partendo già oggi. Ma anche se siete in macchina perché state andando a lavorare, perché state tornando dal lavoro, oppure state girando per la città, il paese, per qualche motivo siete a casa, state lavorando, ovunque siate, naturalmente, Effetto Notte, come sempre, molte le notizie, prima di tutto un quadro esaustivo della giornata, dei fatti più importanti. Poi parleremo di politica, ci occuperemo anche di nuovo del caso di questi giorni, il più eclatante, di femminicidio della 22enne Sara Di Pietrantonio, bruciata dal suo ex fidanzato. È in corso, dovrebbe essere ancora in corso la fiaccolata in suo ricordo a Roma. Domani ci sarà una manifestazione ancora più importante e comunque ne parleremo. Ritorniamo su questo argomento, visto che questa strage continua, questa mattanza delle donne è anche abbastanza nell'indifferenza generale. Spesso vi ho chiesto anche cosa accadrebbe secondo voi se succedesse il contrario in Italia, cioè se fossero le donne che ogni 2-3 giorni dovessero uccidere un uomo che le ha lasciate o che non si sottomette al loro volere. Poi ci occuperemo naturalmente anche, per stare un po' più in leggerezza, di meteo, non solo di questo, ma di meteo, perché chi soprattutto parta stasera o che si allontani nel fine settimana vorrà sapere che cosa l'aspetta. Per quanto riguarda invece i vostri messaggi, visto che domani, a questo punto è dovuto al 2 giugno, domani festa della Repubblica, 70° anniversario, vorrei chiedervi che cosa significa per voi il 2 giugno, la festa della Repubblica, cioè quando 70 anni fa gli italiani scelsero di abbandonare la monarchia appunto per la Repubblica. Che significato ha per voi il 2 giugno? Scrivetelo sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte comodamente, oppure con i messaggi SMS e WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666 per il messaggio, oppure pagina Facebook di Effetto Notte per scrivere il significato che ha per voi il 2 giugno. Qualcuno tra l'altro mi diceva: ma sono aperti i negozi il 2 giugno? La gran parte non dovrebbe essere aperto, qui si apre anche invece l'altro argomento, se è giusto o non è giusto in certe festività nazionali comunque per gli esercizi commerciali lavorare lo stesso, al di là di certe categorie, giornalisti, infermieri, medici o vigili del fuoco e forze dell'ordine. Ma partiamo con i titoli dei fatti principali. La polemica sui migranti, il segretario della CEI Galantino contro la creazione di hotspot in mare, dice bisogna accoglierli tutti. Salvini lo accusa di essere nemico degli italiani, Alfano osserva non possiamo accoglierli tutti. San Gottardo, i leader europei inaugurano il tunnel più lungo del mondo, è un'opera che unisce l'Europa, commenta Renzi. La ragazza uccisa a Roma dall'ex, secondo l'autopsia, è stata prima strangolata e poi bruciata. Il disastro del volo Egyptair, i segnali delle scatole nere captati da una nave francese, il recupero dovrebbe avvenire entro il 10 giugno. Vaccino universale contro i tumori, al via i primi test sugli esseri umani. Il ponte del 2 giugno, la prima volta dei sindaci domani alla parata, in viaggio 7 milioni di italiani. Quindi, come dicevamo, partiamo da questa polemica sui migranti. Intanto dal Viminale si parla di una risposta in replica a quello che ieri la Commissione Europea ha detto all'Italia, nel senso datevi da fare, accelerate sulla creazione di hotspot. Il Viminale, il Ministero dell'Interno, sta preparando questo documento da sottoporre, in cui si parla di due nuovi hotspot che dovrebbero nascere a Mineo e Messina in Sicilia, facendo salire i posti complessivi da 1600 a 2008, poi l'attivazione di 6 strutture mobili basate a Cagliari, Reggio Calabria e altre 4 località pronte a intervenire nei porti di sbarco, e l'apertura di hotspot di secondo livello. Questi hotspot sono sempre dei centri, diciamo, di prima identificazione in diverse regioni dove sistemare le persone destinate a essere rimpatriate. In cambio l'Italia chiede all'Unione Europea un'accelerazione appunto sui rimpatri e sulla ricollocazione dei rifugiati, che dopo quasi un anno è complessivamente ferma a poco più dell'1% rispetto alle promesse. Per l'Italia appena 718 rimpatriati ricollocati su 39.600 in 2 anni che erano previsti. E oggi il segretario della CEI, Galantino, come avete sentito, ha criticato l'ipotesi di hotspot in mare per identificare i migranti, dicendo che bisogna dare accoglienza e umanità a tutti. Ha replicato il leader della Lega Salvini dicendo che chi parla così è complice degli scafisti e deve quindi vergognarsi e chiedere scusa. Più morbidi, come avete sentito, i toni invece del ministro dell'Interno Alfano, che ha commentato: il monsignor Galantino della CEI fa il suo mestiere, io faccio il mio, abbiamo un cuore grande, ha detto siamo campioni d'umanità, come avete sentito, ma non possiamo accogliere tutti. E oggi c'è stata l'inaugurazione del San Gottardo, che è il tunnel ferroviario più lungo del mondo. Erano presenti vari leader europei e il presidente del Consiglio Renzi ha commentato: il tunnel del San Gottardo, inaugurato oggi in Svizzera, che rende i collegamenti tra nord e sud Europa più veloci, ha un alto valore simbolico del quale come Italia siamo molto grati alla Svizzera. In un momento, dice, in cui si costruiscono muri, oggi la Svizzera ha fatto una galleria di collegamento e di occasione di incontro. Ma sentiamo il nostro Andrea Ferro. Andrea. Buonasera da Poleggio Canton Ticino, una cerimonia studiata nel dettaglio, suggestiva ed efficace come nelle tradizioni elvetiche. Coreografia, danze, musica, evoluzioni della pattuglia acrobatica. Per la Svizzera oggi è stato un giorno di grande festa. Il primo treno sul quale hanno viaggiato anche la cancelliera Angela Merkel e il presidente francese Hollande ha impiegato 28 minuti per coprire i 57 chilometri della galleria del Gottardo da Rinect a Polleggio. Da oggi è il tunnel più lungo al mondo. Il presidente del Consiglio Renzi ha raggiunto il portale sud in auto e non ha partecipato alla cerimonia ufficiale per tornare subito a Roma. Nel suo discorso Hollande, a proposito della Brexit, ha lanciato un messaggio alla Gran Bretagna. 20 fa è stato aperto il tunnel sotto la Manica, spero che i britannici se ne ricordino, ha detto. Per Angela Merkel la galleria è il simbolo dell'unità europea, ma occorre proteggere i confini esterni. In TV Renzi ha parlato di opera fondamentale, ha detto che l'Italia è pronta a realizzare gli altri interventi sul corridoio tra Chiasso e il porto di Genova. Terminati i collaudi, dall'11 dicembre la galleria di base del Gottardo entrerà a regime. Ogni giorno vi potranno transitare 65 treni viaggiatori a 200 chilometri all'ora e 250 treni merci. Da Poleggio, Canton Ticino, è tutto, a te la linea. Grazie Andrea Ferro. Adesso passiamo alla politica fiscale. Il ministro delle Finanze, Piercarlo Padoan, intervistato da Sky TG24, ha confermato l'impegno del governo sulla riduzione delle tasse, affermando che non è escluso un taglio dell'IRPEF per il 2017 e sull'ipotesi che il governo confermi il taglio dell'IRES già approvato per il 2017 e lo stop agli aumenti di IVA. Il ministro ha chiarito che l'obiettivo del governo resta la riduzione del deficit e del debito nazionale. Sentiamo Padoan. Ci sono degli spazi, ma questi spazi non sono infiniti. A un certo punto magari bisognerà fare una scelta, quindi prendere qualcosa dentro e buttare qualcosa fuori. Il mestiere del Ministro delle Finanze è quello di ricordare a tutti che ci sono delle compatibilità, che ci vengono date in parte dalle regole, ma soprattutto dai mercati. Siamo in un paese ad alto debito, non dimentichiamocelo. Il debito scende, ma va condotto per mano giorno per giorno. E siamo alla vicenda della ragazza uccisa a Roma dall'ex. È in corso appunto nella capitale una fiaccolata dedicata a Sara Di Pietrantonio, la studentessa di 22 anni strangolata e bruciata dall'ex fidanzato che è ora in carcere. Oggi c'è stato per lui l'interrogatorio di garanzia ed è stato convalidato il fermo. Resta in cella Vincenzo Paduano al termine dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere di Regina Coeli. Il GIP ha confermato il suo fermo, accusato di omicidio volontario premeditato con l'aggravante dello stalking. Il vigilante 27enne ha già confessato di aver ucciso e dato fuoco alla sua ex, la 22enne Sara Di Pietrantonio. Secondo i primi risultati dell'autopsia eseguita oggi, la ragazza sarebbe stata prima strangolata e poi data alle fiamme da Paduano, che non aveva accettato la fine del loro rapporto e, dopo essere stato lasciato, l'aveva seguita e minacciata più volte fino all'omicidio commesso nella notte tra sabato e domenica, dopo il quale il giovane avrebbe anche cercato invano di cancellare le prove e costruirsi un alibi. Con un passaparola sui social network, nel frattempo amici e parenti di Sara questa sera, per ricordarla, hanno organizzato una fiaccolata che attraverserà il suo quartiere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ancora cronaca: è morto dopo 8 ore di intervento chirurgico il maresciallo capo dei carabinieri Silvio Mirarchi, ferito ieri sera durante un'azione antidroga nelle campagne di Marsala, in provincia di Trapani, in Sicilia. Mirarchi, 53 anni, era postato in Borghese insieme a un collega nei pressi di una piantagione di marijuana quando è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco all'altezza del rene che gli hanno perforato l'aorta. L'ipotesi più accreditata è che a sparare siano stati i responsabili di queste piantagioni, e piantagione posta subito sotto sequestro. Other than the building, the area outside is called the Court of Sciences. We have asked everybody from that location. Ci stiamo spostando all'estero, in Stati Uniti. Quelle che state ascoltando sono le parole del capo del Dipartimento della Polizia di Los Angeles. Due le vittime finora accertate nella sparatoria che è avvenuta in uno dei campus di Oakland all'Università della California. Il campus è stato subito chiuso, l'attentatore è ancora a piede libero e vedo che da un'ultima agenzia che non si esclude che ci sia stata una lite. Poi vediamo se ci sono ulteriori aggiornamenti. Intanto sono state, invece, per quanto riguarda il disastro dell'aereo Egyptair precipitato in mare, sono state individuate le scatole nere. Primi passi verso la risoluzione del mistero Egyptair, una nave francese impegnata nelle ricerche dei resti dell'aereo precipitato lo scorso 19 maggio, ha captato un segnale proveniente da una delle due scatole nere del velivolo. La conferma è arrivata dall'ufficio d'inchieste e d'analisi per la sicurezza dell'aviazione civile, l'agenzia governativa francese che sta cercando di comprendere le cause del disastro aereo che ha provocato la morte di 66 persone. Solo pochi giorni fa, fonti vicine all'agenzia sostenevano che le scatole nere non sarebbero state ritrovate prima di 12 giorni, cosa problematica perché tali dispositivi smettono di trasmettere segnali dopo 5 settimane. La John Lethbridge, una nave dotata dei robot necessari al recupero delle scatole nere, si recherà sul luogo dove è stato rilevato il segnale nel giro di una settimana. La scatola nera, sita a più di 3.000 metri di profondità, dovrebbe consentire di far luce sui segnali d'allarme lanciati dall'aereo 2 minuti prima di precipitare. Giuseppe Luongo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in Iraq continua la resistenza dei miliziani dell'ISIS asserragliati nella città irachena di Fallujah. Secondo l'UNICEF ci sono almeno 20.000 minori tra i civili che sono intrappolati nella roccaforte dello Stato Islamico. Poi ne parleremo per capire a che punto è la situazione, visto che ci sono tanti civili che sono schiacciati tra le forze lealiste irachene e appunto i jihadisti dell'ISIS che resistono. Parliamo intanto dell'allarme a Parigi, perché c'è l'acqua della Senna che per il maltempo sta salendo pericolosamente. La Senna fa paura. Dopo un mese di maggio che è stato il più piovoso a Parigi dal lontano 1886, l'acqua sta salendo rapidamente. Mercoledì lungo Senna sulla riva destra sono stati chiusi alla circolazione. Anche i bateaux-mouches non navigano più, troppo pericoloso. I parigini guardano la statua dello Zuavo, enorme riproduzione di un fante, ai piedi del ponte dell'Alma. È quella a indicare tradizionalmente il livello dell'acqua. Nel 1910, all'occasione di una tragica piena, il fiume arrivò fino alle spalle dello Zuavo. Oggi ha già superato i piedi, quindi i 4,5 metri. Secondo il comune di Parigi si dovrebbe arrivare presto oltre quota 5, ma spiegano le autorità, anche a quel livello i danni non dovrebbero essere significativi. L'allerta non è ancora rossa, come invece nella periferia est di Parigi, dove già si stanno evacuando delle famiglie. Intanto il livello dell'acqua cresce anche sulla statua dello Zuavo. Leonardo Martinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Pakistan: una ragazza pakistana di 19 anni, abitante di un villaggio della provincia del Punjab, non lontano da Islamabad, che è la capitale, è morta oggi in ospedale dopo essere stata torturata e poi bruciata viva da 5 uomini per aver rifiutato un'offerta di matrimonio. In realtà sono continue, dovete sapere, durante i giorni queste agenzie che arrivano da questi paesi, ma questo per dire insomma che filo rosso c'è anche tra Italia e paesi come questi. Siamo di nuovo in Italia per parlare però di altro. Secondo Federalberghi saranno circa 7 milioni, un milione in più rispetto all'anno scorso, gli italiani che stanno approfittando di questo ponte del 2 giugno per concedersi un primo assaggio di vacanze estive dormendo almeno una notte fuori casa, nonostante le previsioni meteo, di cui poi parleremo qui effetto notte, che non sono troppo ottimistiche, saranno comunque più 16,5% rispetto al 2015. Adesso una notizia per chiudere importante che riguarda la scienza e la salute: la possibilità di realizzare un vaccino terapeutico per combattere i tumori potrebbe essere più vicina, almeno ne sono convinti scienziati tedeschi dell'Università Gutenberg a Mainz, che hanno avviato i primi test sugli esseri umani. I vaccini terapeutici puntano a rilevare la presenza di un cancro, segnalandolo al sistema immunitario dell'organismo, nell'intento di farlo attaccare dalle difese immunitarie. Il vaccino Made in Germany avrebbe già dato delle risposte positive nel sistema immunitario dei topi, così fa sapere un articolo sulla rivista scientifica Nature che ha appena pubblicato la notizia, e ora in fase di sperimentazione su 3 pazienti in un stadio avanzato di melanoma. Speriamo che arrivino presto delle buone notizie in questo senso. Invece stanno arrivando i vostri messaggi al 349-238-6666, anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Che significato ha per voi la festa del 2 giugno, la festa della Repubblica, quando nel 1946, 2 giugno, nel referendum gli italiani scelsero di abbandonare la monarchia per la Repubblica? Sapete che il mondo politico, leggo, dell'economia, dello spettacolo e dello sport sta già festeggiando questa sera i 70 anni della Repubblica e anche del voto alle donne, perché per la prima volta votarono nel 1946, non è neanche tanto tempo fa, da 70 anni hanno il voto le donne. Il Presidente della Repubblica Mattarella, accompagnato dalla figlia, ha ricevuto numerosi esponenti del governo presenti, a cominciare dal Premier Matteo Renzi, quindi li stanno festeggiando il 2 giugno nei giardini del Quirinale, insomma stanno festeggiando in anticipo. Per voi che significato ha il 2 giugno? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte per le vostre riflessioni sul 2 giugno. Intanto guardavo questo messaggio di Giulio da Pistoia, credo, che dice: Roberta, ti saluto dal mio camion, farò il ponte lavorando, continuerò ad ascoltarti, buon lavoro. Mi sembra un'ottima cosa, Giulio, visto che non fai ponte, continua ad ascoltarmi. Anche facendo il ponte si può continuare ad ascoltare Effetto Notte, anche se vi devo dire che domani faccio un ponticello minimissimo, nel senso, giusto domani festeggio anch'io la Repubblica, ma poi venerdì ci sentiamo. Intanto però proseguiamo, e adesso c'è la viabilità. Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E rieccoci qui, Roberta Giordano sempre con voi. Tra poco vi ricorderò le notizie principali, se non avete acceso puntualmente alle 21, sapete che ogni tanto ve le ricordo, i fatti più importanti. Tra poco parleremo di nuovo della terribile vicenda della 22enne bruciata dall'ex fidanzato a Roma. Intanto, per esempio, per quanto riguarda invece i vostri messaggi, vi sto chiedendo che significato ha per voi la festa del 2 giugno, la festa della Repubblica. Scrive Fabio: non ci sono motivi per fare una cosa del genere a una donna. Questa è una cosa sul tema che stiamo per trattare, che è amato per giunta, non capisco, quindi nessuno sconto, ma forse occorre aiutare queste persone visto che da sole non ce la fanno. Fabio, diciamo un po' forse troppo comprensivo. Però l'altro invece sul 2 giugno, eccolo qua: 2 giugno, l'ovvia caduta di una casa reale indegna e irresponsabile, quindi la nascita di una repubblica i cui fondatori non hanno avuto degni successori. Questo è uno dei messaggi che sta arrivando sul 2 giugno. Adesso vi ricordo le notizie principali, vi dicevo, e poi cominciamo a approfondire gli argomenti. Alfano ai vescovi sui migranti, dice: non possiamo accogliere tutti. Salvini attacca Monsignor Galantino, dice: complice degli scafisti, si scusi, perché ha detto che bisogna accogliere tutti. Ministro dell'economia Padoan vede la svolta, l'economia accelera, dice: giù le tasse. Intanto l'OCSE, l'organizzazione per lo sviluppo economico, dice: la crescita italiana ritrova un po' di forza. Intanto però spaventa sempre la Brexit e la possibilità che la Gran Bretagna possa uscire dall'Unione Europea. Per quanto riguarda le prossime elezioni comunali, tutti contro tutti, naturalmente, a pochissimi giorni dal voto, e poi l'autopsia su Sara Di Pietrantonio, la ragazza uccisa e bruciata dal suo ex fidanzato. Secondo l'autopsia sarebbe stata prima tramortita, poi strangolata e poi bruciata. Paduano, interrogato oggi in carcere, è stato convalidato il fermo. E poi il carabiniere ucciso durante un servizio antidroga a Marsala, cercava piantagioni di marijuana. Cordoglio anche di Mattarella. I leader europei oggi hanno inaugurato il San Gottardo, il tunnel dei record. Renzi dice un cantiere del secolo e è un tunnel che unisce anziché separare. Poi la festa del 2 giugno, la prima volta dei sindaci alle parata, 7 milioni in viaggio per il ponte, il 92% resta in Italia. Che ne pensate voi? Quali sono le vostre riflessioni sulla festa, il 70° anniversario della festa della Repubblica, domani 2 giugno? Mentre voi scrivete sulla pagina Facebook di Effettonote al 349-238-6666, cominciamo ad entrarci nei vari argomenti. Torniamo sul femminicidio della Magliana a Roma, la vicenda della studentessa di 22 anni, Sara Di Pietrantonio, barbaramente uccisa dall'ex fidanzato Vincenzo Paduano, 27 anni, reo confesso dopo ore di interrogatori, di fronte a prove schiaccianti. L'assassino era stato lasciato da lei da pochi giorni, e loro avevano avuto circa 2 anni di relazione, andata avanti tra alti e bassi, e gli inquirenti hanno detto, a lui, agli inquirenti ha detto: l'ho uccisa, io non sopportavo che fosse finita. Vi ricordo brevemente com'è andata. Poche ore prima dell'omicidio Paduano era stato a casa di Sara e aveva discusso con lei davanti alla madre di Sara. Poi nella notte tra il 28 e il 29 maggio ha lasciato il suo posto di lavoro di guardia giurata, ha inseguito di nascosto la ragazza grazie a un'applicazione del telefonino, l'ha speronata con l'auto, costretta a fermarsi, le ha gettato dell'alcol addosso e ha dato fuoco alla macchina. Sara ha cercato di scappare, lui l'ha inseguita e poi le ha dato fuoco, e dall'autopsia l'ha lasciata bruciare come una torcia umana. Dall'autopsia che è stata fatta oggi risulterebbe che è stata prima Sara da lui aggredita, poi tramortita, poi strangolata e poi bruciata. Pensate che escalation, che crescendo di ferocia distruttrice da parte di quest'uomo. Risulterebbe che era quasi certamente morta Sara, secondo questa autopsia svolta oggi, quando lui le ha dato fuoco. Poi ci saranno ulteriori accertamenti nei prossimi giorni. Oggi c'è stato anche l'interrogatorio di Vincenzo Paduano, che è durato 2 ore, è stata confermata la custodia cautelare, quindi resta in carcere. E stasera a Roma c'è stata una fiaccolata, cioè forse ancora in corso, nel suo nome, nel nome di Sara, alla quale hanno partecipato tanti comuni cittadini e anche alcuni rappresentanti dell'associazione Differenza Donna, che da sempre è molto attiva sul tema della violenza contro le donne. Ed è lì presente Elisa Ercoli. Buonasera Elisa. Buonasera a tutte. Che è presidente dell'associazione Differenza, sì. Donna. Sì. Allora, è ancora in corso la manifestazione, la fiaccolata? Sì, la manifestazione è ancora in corso. E questa fiaccolata di questa sera era una fiaccolata appunto organizzata, diciamo, dagli amici più giovani di Sara. E domani mattina invece ci sarà un'altra manifestazione dalle 10 alle 13. Che partirà proprio dal luogo del delitto, insomma, dal luogo dove è stata uccisa, e ci troveremo tutte lì. C'è stato un grande battage nazionale sul desiderio assoluto di tutte di riprendere parola contro i femminicidi, ma in generale contro la violenza maschile nei confronti delle donne, e quindi domani saranno organizzate manifestazioni molte città d'Italia, le manifestazioni per capire anche dove incontrarsi saranno, sono tutte pubblicizzate sui social e principalmente su Facebook, così come quella di domani che è alle 10 a Via della Magliana 1125. E noi speriamo e sappiamo che domani saremo in tantissime in tutta Italia, perché non solo i femminicidi continuano ad avvenire, non solo aumentano le pratiche violente, quindi appunto come spiegavate voi queste uccisioni diventano anche particolarmente efferate, ma in particolare la preoccupazione sta in una società italiana che non ha una conduzione istituzionale per cercare di contrastare questo fenomeno. Le istituzioni sono sempre più assenti, non abbiamo sentito neanche una parola da tutte le ministre che sono nell'attuale governo rispetto all'uccisione di Sara. Sarebbe stato bene anche sentirlo da parte dei ministri, no? Nel senso che gli uomini dovrebbero molto interrogarsi su quello che continua a succedere, Elisa. Assolutamente. Questo, noi siamo certe, è un problema maschile, non di certo un problema femminile. Cioè, poi noi ne diventiamo le vittime, ma il problema è un problema tutto maschile. Ormai anche a livello sociologico, come analisi, è molto chiaro perché avvengono queste situazioni. Lo abbiamo tra l'altro anche scritto in tantissime norme e testi normativi italiani, prima fra tutti la Convenzione di Istanbul, che l'Italia ha ratificato e che ormai è legge anche in Italia, in cui è chiaramente scritto che la violenza maschile contro le donne dipende da una disparità dell'uso di potere degli uomini e delle donne all'interno delle nostre società. Infatti l'Italia è il paese in cui avvengono più femminicidi in tutta Europa, e questo perché, a differenza degli altri paesi che comunque continuano ad avere problemi di violenza maschile, però l'Italia è assolutamente indietro rispetto a ripensare un'organizzazione sociale che veda le donne nella loro libertà di scelta, e quindi sia rispetto al loro corpo, sia rispetto ad intraprendere un'attività lavorativa. Invece l'organizzazione sociale italiana ancora non si è adeguata per garantire queste libertà femminili, e quindi rimane sempre stupita e spesso quindi senza mezzi e strumenti in risposta a queste libertà che le donne per fortuna ormai agiscono. E quindi la violenza contro le donne è sempre quando una donna dice no, quando una donna dice basta, quando una donna agisce dal soggetto libero. Elisa Ercoli, è per questo appunto, come questo diciamo quadro veramente sconfortante del nostro paese, per questo che noi continuiamo a avere quelli che io chiamo i talebani nostrani, no? Senza per forza andare a puntare il dito. Sì, non c'è bisogno di andare lontano. Appunto, perché leggevo poco prima di una notizia del Pakistan, che in realtà Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, avvengono tutti i giorni queste cose, di una 19enne bruciata perché non accettava una proposta di matrimonio, ma appunto pare tale e quale qua in Italia, ogni 2 o 3 giorni succede la stessa cosa. Ci sono poi, è grave Elisa Ercoli, anche quelli che io chiamo negazionisti, no? Si continua a dire, tantissimi continuano a dire, non è vero che c'è un fenomeno di questo tipo, non è vero che ci sono i femminicidi, non è un delitto specifico, sono omicidi come gli altri. Questo impedisce, come diceva lei, ai comuni cittadini, alla società, ma anche alle istituzioni, di focalizzare davvero quali sono le cause e affrontare anche il fenomeno, no? Assolutamente sì, invece esistono delle questioni che sono ormai, appunto come dicevamo prima, assolutamente non solo studiate, analizzate, ma dai massimi organismi, quindi penso alla Commissione dello Status delle Donne delle Nazioni Unite, piuttosto che all'Unione Europea, al Consiglio d'Europa, lo stesso Parlamento italiano che ha ratificato la Convenzione di Istanbul, ormai è chiarissimo a tutti, esce fuori dalle indagini nazionali dell'Istat, esce fuori da tutti i ricercatori più attenti, insomma, che questo fenomeno dipende proprio dalla disparità di potere tra gli uomini e le donne all'interno delle società. Certo. Adesso Elisa la questione, sì. Mi scusi, finisco soltanto. Adesso la questione è, per sconfiggere comunque un fenomeno così resistente e così millenario, servono politiche sistemiche e non servono interventi sporadici. Finché non capiremo questo, non riusciremo a cambiare niente. Allora qui serve di cambiare i testi scolastici dei bambini e delle bambine, che sono ancora pieni di stereotipi e pregiudizi patriarcali. Serve di fare formazione a tutti gli operatori territoriali che crescono i nostri figli, in modo tale che sappiano appunto essere più aperti, avere una visione più illuminata di quello che sta avvenendo nelle nostre società. Serve di formare la rete delle forze dell'ordine, dei servizi sociali, che sono così colpevolizzanti ancora le donne. Vero, di violenza. Un lavoro enorme. È un lavoro enorme. Invece pensi che proprio in questo momento escono dei comunicati dappertutto su Facebook sono a rischio i centri antiviolenza finanziati da Roma Capitale, che sono centri antiviolenza storici, in particolare a Roma, finanziati da Roma Capitale, ce ne sono 2 centri antiviolenza e 1 centro di semiautonomia, Ecco, questi centri sono a rischio per mancanza di finanziamenti. Non ci sono proroghe, non ci sono finanziamenti, certo. Nessuno sa come bisogna fare. Quindi sono questo dimostra indietro. la volontà delle nostre istituzioni di combattere questa mattanza. Elisa Ercoli, andrei avanti ancora molto con lei, ma i tempi stringono. Io la ringrazio moltissimo per il suo intervento e per il suo lavoro. La ringrazio, io ringrazio voi e spero sempre che anche i media riescano a svolgere un ruolo positivo in questa evoluzione culturale della quale abbiamo veramente bisogno. Ha ragione, arrivederci. La promessa c'è, grazie Elisa Ercoli. Adesso cambiamo tema, inevitabilmente sono tanti gli argomenti, ma questo deve essere sempre centrale rispetto appunto alle cose terribili che ci ricordava anche Elisa Ercoli del nostro paese, delle istituzioni, delle forze dell'ordine, eccetera, diciamo tutta una catena che evidentemente ancora non funziona in questo senso. E c'è la nostra Betta Fiorito. Betta, da Roma, in diretta. Buonasera radioascoltatori. Betta, senti, invece parliamo del fatto che siamo appunto a pochissimi giorni, il 5 giugno si vota per le comunali, naturalmente sono tutti contro tutti, la campagna si infiamma, Renzi, che finora il Presidente del Consiglio, nonché segretario del PD, aveva, diciamo, dico snobbato, insomma, si era concentrato molto più sul referendum costituzionale di ottobre, dicendo che le amministrative erano una questione locale, invece oggi si è voluto spendere per il candidato del PD lì a Roma. Ecco, Roberta, ti dico che appena iniziato all'auditorium della conciliazione l'intervento di Matteo Renzi a sostegno proprio di Roberto Giachetti, e dice noi non potevamo fare un comizio perché è stato criticato Matteo Renzi dal Movimento 5 Stelle perché Presidente del Consiglio, quindi dovrebbe essere in teoria neutrale secondo i 5 Stelle, e allora lui ha detto: allora noi abbiamo fatto questa iniziativa, non potendo fare un comizio io intervisterò Roberto Giachetti, adesso lui è sul palco, il Presidente del Consiglio sta facendo un po' un one man show, ricordiamo che oggi è andato al Quirinale con tutti i rappresentanti dell'opposizione, della maggioranza, per la festa del Quirinale, la festa della Repubblica. Nel frattempo, Roberta, la campagna elettorale impazza, e c'è da segnalare che lo scontro è un pochino su questa restituzione o meno degli 80 euro, il famoso bonus che il governo aveva dato, e che non ne ha diritto chi ha 25.000 euro lordi l'anno di reddito, e lo deve restituire. Allora i 5 Stelle attaccano, come a dire, il governo leva quello che è dai cittadini, e invece il Presidente del Consiglio replica che è una slogan da campagna elettorale perché queste cose si sapevano sin dall'inizio. Altra polemica è quella su il fatto che deciderà Beppe Grillo dopo le elezioni il caso Pizzarotti. Luigi Di Maio dice che non è proprio per le elezioni, ma lo deve decidere il garante del Movimento 5 Stelle. Infine, non possiamo non dire la bellissima diatriba oltreoceano tra Donald Trump e Matteo Salvini. Donald Trump dice che Matteo Salvini non l'ha mai incontrato, che questa foto è stata un po' una sorta rubata, lui si è un po' intrufolato, si è imbucato, come si dice. Le feste degli adolescenti, Matteo Salvini, da Donald Trump a Filadelfia. Invece Salvini dice no, io ho le mail, eccetera. Insomma, una campagna elettorale sulle battute finali che impazza, e adesso all'auditorium è salito sul palco anche proprio Roberto Giachetti, il candidato Dem appunto per la corsa al Campidoglio, che, come ricordiamo, per par condicio vede Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, Alfio Marchini indipendente appoggiato a Forza Italia, Stefano Fassina di Sinistra Italiana, appunto Roberto Giachetti dei Dem, ma Betta, anche molti altri candidati. E infatti sentiamo gli altri candidati perché ci hai fatto questo piccolo reportage. Grazie Elisabetta Fiorito da Roma. Ciao Betta. Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro alla fontanone. non ci sono solo i big candidati a Roma: Roberto Giachetti, Virginia Raggi, Alfio Marchini, Stefano Fassina, Giorgia Meloni, ma anche coloro che concorrono a candidato sindaco, perché, per dirla alla De Coubertin, l'importante è partecipare e non vincere. Tra i volti più noti, Mario Adinolfi, ex deputato PD, ora Popolo della Famiglia, oltranzista cattolico, convinto che la moglie debba essere sottomessa al marito, con un matrimonio a Las Vegas, assolutamente anti-gay, balzato all'onore delle cronache per le affermazioni contro Elton John al Family Day del 2015 e contro la maternità surrogata. Le critiche sembrano non abbiano fatto alcun effetto sulla pop star inglese, ma il fronte cattolico è anche rappresentato da Fabio Verducchi di Italia Cristiana, tricolore con cuore e corona, e la lotta perché la famiglia sia fatta da un padre e da una madre. Fascisti su Marte, rosso pianeta bolscevico e traditor. Altra candidatura che fa discutere è quella di Simone Di Stefano di Casa Pound, 39 anni, della Garbatella, barba e sguardo da irriducibile con mano alzata in saluto fascista. Di Stefano è convinto che Casa Pound sarà determinante in queste elezioni, con programma elettorale chiaro: prima i romani per case, asili, servizi sociali. Una candidatura che imbarazza il centrodestra e viene contestata dal centrosinistra, ma la destra è rappresentata anche da Alfredo Iorio, in campo per resuscitare la capitale uccisa dai partiti e dai palazzi del potere, per il movimento sociale, per il Campidoglio. Io sono Spartaco! Io sono Spartaco! C'è anche spazio per il folklore, con Dario Di Francesco, lista del grillo parlante, No Euro, che si autodefinisce novello Spartaco, intende guidare la rivolta degli schiavi, ovvero dei cittadini, dopo lo scandalo Mafia Capitale. Non mancano le liste civiche, come quella di Michele Emi Maritato, di Asso Tutela, stemma, volto e sfondo con il cupolone. Più noto Carlo Rienzi, dei Codacons, l'associazione dei consumatori per Roma, con programma Lacrime e Sangue, prima di tutto per gli stessi romani, perché i cittadini devono cambiare comportamento e contribuire al decoro della città. Avanti al popolo, alla riscossa, bandiera rossa. Da ultimo c'è anche un irriducibile comunista, il giovane Alessandro Mustilli, fronte della gioventù comunista, che esclude qualsiasi tipo di accordo con il Partito Democratico e la sinistra che lo sostiene. La promessa è quella di rompere con il patto di stabilità e con i meccanismi europei. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando Effetto Notte e qualsiasi cosa stiate facendo, e anche naturalmente con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Continuano anche i vostri messaggi, mentre tra poco continuerò a approfondire altre notizie, altri argomenti con gli ospiti, i vostri messaggi sul significato che secondo voi ha il 2 giugno. Scrivete sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia con il numero 349-238-6666, 349-238-6666 per gli sms e i WhatsApp. Per esempio c'è Ciro da Terni che dice: che grossa stupidaggine che fecero gli italiani eliminando la monarchia, con questi politici siamo passati dalla padella alla brace, dice Ciro da Terni, nostalgico della monarchia. Marco: le feste nazionali hanno comunque senso, perché dovrebbero far riaffiorare quel senso di unità che si è perso o che non si è mai costituito, a voler ben guardare. A me piace come festa, però è diventata una scusa per fare il ponte, dice Marco. Domani moltissime aziende italiane che si affannano durante l'anno a parlare di produttività saranno chiuse. Qui si apre anche l'altro argomento: giusto o non è giusto durante queste feste nazionali non lavorare, riposarsi, festeggiarle in tutti i sensi, insomma. Adesso però vi ricordo velocemente quali sono le notizie più importanti del giorno. La polemica sui migranti: il segretario della CEI Galantino contro la creazione di hotspot in mare, dice bisogna accoglierli tutti. Salvini lo accusa di essere nemico degli italiani. Alfano osserva: non possiamo accoglierli tutti quanti. San Gottardo: i leader europei inaugurano il tunnel più lungo del mondo, è un'opera che unisce l'Europa, commenta Renzi. La ragazza uccisa a Roma dall'ex, secondo l'autopsia è stata prima strangolata e poi bruciata. Il disastro del volo Egyptair: i segnali della scatola nera captati da una nave francese, il recupero dovrebbe avvenire entro il 10 giugno. giugno. Vaccino universale contro i tumori, al via i primi test sugli esseri umani. E poi il ponte del 2 giugno, la prima volta dei sindaci alla parata domani, e intanto sono in viaggio 7 milioni di italiani. Nel frattempo cosa succede in altre parti del mondo? Per esempio a Fallujah in Iraq, una situazione terribile in cui versa la popolazione a rischio di catastrofe umanitaria. Ieri le forze lealiste irachene hanno lanciato un'offensiva contro i miliziani jihadisti dell'ISIS che stanno opponendo una resistenza accanita. In mezzo però ci sono i poveri civili, si moltiplicano le testimonianze sul calvario delle decine di migliaia di civili che sono rimasti intrappolati dai combattimenti, con un operatore umanitario che appunto ha parlato di catastrofe umanitaria. L'ONU denuncia tra l'altro l'impiego di bambini soldato da parte dei jihadisti e l'UNICEF lancia l'allarme: ci sono 20.000 bambini e ragazzi intrappolati tra questi due eserciti, diciamo. Ne parliamo con Stefano Silvestri, già presidente e attuale consigliere scientifico dell'OIAI, Istituto Affari Internazionali di Roma. Buonasera Silvestri. Buonasera. Quindi conferma che ancora la situazione è questa? Sì, direi che sì, la situazione è questa. Ci sono circa 50.000 persone, si dice, a Fallujah, 50.000 civili, di cui probabilmente circa 20.000 giovani. E naturalmente questi sono usati dall'ISIS come ostaggi, come scudo, come un tentativo per bloccare l'avanzata delle forze governative. La cosa quindi è pericolosa, anche perché poi c'è anche il rischio che, siccome questi civili sono per lo più sunniti, mentre una parte delle forze che avanzano sono sciite, non ci sia grande attenzione da parte delle forze realiste nei confronti per salvare, diciamo, la vita di questi civili. Ma anche senza questo rischio ulteriore, è comunque una situazione estremamente grave, anche perché non può arrivare nulla, non arriva cibo, non arrivano aiuti, non arriva nulla. Silvestri, si è parlato di possibili corridoi umanitari. Dall'esterno non si può far nulla, nel senso gli altri paesi, la coalizione internazionale contro l'ISIS, non è possibile intervenire in nessun modo? Ma diciamo che l'intervento può essere solo molto relativo, perché in realtà molto dipende da quello che decide di fare l'ISIS. Per cui, diciamo, la cosa che sta avvenendo è che contemporaneamente sono in corso molti diversi tipi di attacco, sia in Iraq, più a nord, intorno a Mosul, sia in Siria, e che questo quindi divide le forze dell'ISIS e potrebbe spingerle a raggrupparsi e a lasciar perdere una città così esposta come Fallujah. Altrimenti è molto difficile. Si possono forse fare delle piccole pause di tipo umanitario, però è anche difficile negoziare in queste situazioni, e anche perché c'è sempre il rischio che le pause vengano utilizzate dai combattenti dell'ISIS per rafforzare determinate posizioni. E sì, poi appunto bisogna capire se è una situazione in parte di debolezza il fatto che siano attaccati sia in Siria che in Iraq, però bisogna appunto vedere anche poi la reazione che avrà l'ISIS in questo senso. È già a Fallujah, insomma. Sì, la reazione che stanno avendo, da parte della resistenza a Fallujah, che diciamo era abbastanza scontata, sembra essere quella di cercare di moltiplicare gli attacchi terroristici al di fuori, a Baghdad, in Siria, eccetera, al di fuori del campo di battaglia, anche lì un tentativo di una manovra diversiva, diciamo, in qualche misura. Purtroppo questa è una guerra molto, molto irregolare, è una guerra civile e nello stesso tempo una guerra contro il terrorismo, è una guerra di religione. Una mescolanza di queste tre realtà ne fa qualche cosa di estremamente complesso, anche difficile, complesso e crudele anche. Grazie Stefano Silvestri dell'OIAI, grazie. Grazie a voi. E buona serata. E intanto, prima della viabilità, c'è Mirko che scrive: Repubblica o monarchia, bisognerebbe festeggiare la voglia di noi italiani di andare avanti nonostante la politica. A dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Abbiamo approfondito un altro argomento, tra poco di nuovo le notizie più importanti, mentre viaggiate, mentre lavorate, mentre giocate, qualsiasi cosa stiate facendo, e non voglio entrare nei dettagli, diciamo, leggo ancora i vostri messaggi. Vi ho chiesto questa sera che cosa rappresenta per voi la festa del 2 giugno, potete scriverlo sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp, SMS. Per esempio Luigi da Padova dice: cara Roberta, sono orgoglioso che il sindaco del mio paese natio, Rocca Bianca, in provincia di Parma, comune natale di Giovannino Guareschi, padre di Don Camillo Peppone, sarà alla parata di domani. Camillo e Peppone rappresentano lo scontro di due diverse visioni dello Stato, ma che entrambe rimangono attente al bene comune. Ci fossero anche oggi Camilli e Pepponi, viva l'Italia, dice Luigi. E siamo di nuovo sulle notizie più importanti. Vediamo se riesco a recuperarle. Eccole qui, appunto, la polemica sui migranti, dicevamo, tra Alfano, i vescovi e anche Salvini dall'altra parte. Alfano che dice a Monsignor Galantino: non possiamo accogliere tutti. Salvini attacca Galantino dicendo è complice degli scafisti perché vorrebbe accogliere tutti quanti. Poi il ministro dell'economia Padoan che vede la svolta, l'economia dice accelera, giù le tasse. Intanto l'OCSE, l'organizzazione per la lo sviluppo economico, dice che la crescita italiana ritrova un po' di forza. Tutti contro tutti verso il voto, ormai siamo agli sgoccioli, si vota il 5 giugno per le elezioni comunali. E poi l'autopsia sulla povera Sara di Pietrantonio, la ragazza bruciata dall'ex, è stata prima tramortita, questo dice l'autopsia, poi strangolata e poi bruciata. Il suo assassino paduano interrogato oggi resta in carcere perché è convalidato il fermo. Uzon, incontro con gli europarlamentari. Nome: Alberto. Cognome: Cirio. Età: 43 anni. Nato a Torino. Eletto in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria. Con quanti voti? 35.600 rotti. Partito politico: Forza Italia. Gruppo politico: Partito Popolare Europeo. Segni particolari: tanta passione e tanto amore per la terra che cerco di rappresentare al meglio qua in Europa. Quante lingue parla? Bene l'inglese, oltre all'italiano. Competenze europee in 10 parole. Mi occupo di sicurezza alimentare, promozione e tutela delle eccellenze enogastronomiche italiane, il famoso Made in Italy declinato sull'agroalimentare. Benvenuto nella U-Zone di Radio 24 da Silvia Bernardi. Importazioni di prodotti e leggi comunitarie, pro o contro l'agroalimentare italiano? Noi dobbiamo essere pro, ma non lo dobbiamo essere solo a parole, ma dobbiamo esserlo nei fatti. Da una parte facendo protezione, e allora bloccando ciò che può arrivare dalla Cina, ciò che può arrivare dall'Africa, che imita i nostri prodotti senza però averne in alcun modo le qualità. E dall'altra parte dobbiamo continuare con i marchi europei di denominazione di origine, che garantiscono che un prodotto europeo è un prodotto italiano. Oggi l'appartenenza territoriale di un prodotto è più forte della sua storia. Olio di palma, tutta la verità tra allarmismi e realtà. L'olio di palma è un olio che, se viene raffinato sopra i 200 gradi, può far male. Questo ci dice l'EFSA. Allora bisogna capire e usare quei prodotti che hanno all'interno olio di palma al di sotto di questa gradazione. In questo caso l'olio di palma non fa male in quanto è un olio vegetale. Per cui allarmismo no, ma attenzione sì, e soprattutto dovere di informare da parte dei produttori in modo facile e dettagliato in etichetta su ciò che viene contenuto nei prodotti, e dovere di informazione da parte dei consumatori che leggendo con l'etichetta riusciranno a capire al di fuori degli allarmismi se quel prodotto fa bene o male a se stessi e ai loro figli. Quindi l'Europa in questo caso cosa dovrebbe fare? Noi adesso valuteremo nel dettaglio la comunicazione dell'EFSA. L'EFSA è l'autorità che a livello europeo stabilisce e giudica sotto il profilo tecnico-scientifico se i prodotti fanno bene o fanno male. La sua battaglia vinta. Abbiamo ottenuto, e questo non più tardi di un mese fa, che il Parlamento europeo a Strasburgo votasse e cancellasse l'obbligo dei produttori di mettere i profili nutrizionali sui prodotti agroalimentari. Quella persa. Noi rischiamo di perderne una alla settimana oggi qua in Europa se non cambiamo davvero il modo di stare in Europa. Se avesse la bacchetta magica? Chiedo a tutti di soffermarsi a pensare alla storia di un cinquantenne che oggi perde il lavoro. La mia bacchetta magica vorrebbe andare nella direzione non di dire lavoro per tutti, perché so che non è possibile, ma di dire attenzione a queste fasce della nostra società, perché lì c'è la tragedia umana vera. U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. E ora vogliamo sapere, per chi ha la fortuna di fare un lungo ponte, anche per chi lo fa breve, che tempo farà, lo dice il nostro Paolo Corazzoni, Trebimeteo, portatore sano di sole, vero? Di sole, ho detto. Vero? Ho sentito. Buonasera Roberta, buonasera a tutti. In realtà, guarda, ti traduce che non saranno proprio 4 giorni di sole, ma non saranno neanche 4 giorni di pioggia, anzi ritengo che a conti fatti questo ponte alla fine sarà più bello che brutto. Guarda, le zone più fortunate sono le regioni meridionali, perché lì in realtà saranno sì 4 giorni quasi di sole completo, perché al massimo si potrebbe formare qualche temporalino al pomeriggio nelle zone interne, difficilmente raggiungerà anche le spiagge e il mare, quindi al sud andiamo via tranquilli e con temperature piacevoli. Il centro nord invece avrà invece atmosfera più instabile, soprattutto in partenza, quindi domani rischia di essere la giornata peggiore. Al centro nord domani sarà un fioriere di acquazzoni temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane, però anche al centro nord, più che altro nelle zone interne, quindi chi fosse diretto al mare, anche nelle regioni centro-settentrionali, secondo me riuscirà a godersela. E poi giorno dopo giorno questa instabilità sarà sempre meno marcata, le schiarite saranno sempre più ampie e le temperature piano piano saliranno, quindi partiamo fiduciosi, secondo me alla fine torneremo a casa contenti più o meno tutti. Mi sei parso un po' cerchio bottista, ma va bene lo stesso. Grazie caro Paolo Carazzon, buon tempo a te comunque sia. Buon tempo a tutti. Ciao Paolo. E anche buon ponte se lo fai. Intanto i vostri messaggi sul 2 giugno. Andrea sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice: sapere che c'è stato un paese e una politica migliori e non perdere quindi la speranza. Questo significa per lui il 2 giugno. Per Simone: il paese si spaccò in due 70 anni fa. La Repubblica vinse per pochi voti. Oggi siamo ancora più divisi di allora ed è la nostra maggiore debolezza. Poi dice Giuseppe: cara Roberta, se esistono ancora italiani nostalgici e ignoranti della nostra tragedia storica, a proposito di essere nostalgici della monarchia, dice questa ricorrenza, seppur retorica, è quanto mai attuale. E poi c'è Fabrizio da Vicenza che dice: io e il mio cagnolino siamo tuoi affezionati, grazie anche al cagnolino, ti ascoltiamo ogni sera, domani festeggeremo guardando la splendida bandiera italiana e il tricolore che portiamo nel cuore. Su questa onda di patriottismo ci lasciamo per sentirci brevemente alle 22.